Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il cibo. Uno slogan perfetto per una campagna di prevenzione, modernissimo con i suoi circa 2500 anni, rivoluzionario nella sua semplicità. Porta la firma di Ippocrate, il primo vero medico della storia, quello che ebbe l'intuizione e direi il coraggio di separare la medicina dalla religione e di considerare la malattia non come una punizione inflitta dagli dèi, ma piuttosto il prodotto di fattori ambientali, della dieta e delle abitudini di vita. Lo trovo straordinario. Allora, oggi, se non lo siamo già, cari amici, diventiamo discepoli di Ippocrate, fondiamo un fans club, un gruppo su Facebook e intanto chiamatemi 800 24 0024. Qui con me in studio ho già qui due che potrebbero essere soci onorari, assolutamente. Abbiamo il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno e bentornato. Oh, buongiorno a tutti voi. Uno dei nostri esperti del Daily Lab, e abbiamo il piacere di avere il dottor Marco Bianchi, ricercatore ed esperto di comunicazione e didattica scientifica all'Istituto della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Milano, di oncologia molecolare e autore di Le ricette dei magnifici 20, buoni piatti che si prendono cura di noi, Ponte alle Grazie editore. Buongiorno, io Marco ti conosco da tanto tempo e ti do del tu. Buongiorno, fai benissimo Nicoletta, buongiorno a tutti quanti. Allora, insieme ai nostri esperti e soprattutto insieme a voi, oggi cercheremo di scegliere il cibo che ci fa bene, mangiare quello che ci fa bene, magari ridurre l'altro, ma io credo che dobbiamo cambiare un po' testa. Chissà perché noi facciamo un po' fatica a scegliere di fare le cose che ci fanno bene. Siamo creature complesse, paradossali, contraddittorie, plurisfaccettate, pluristratificate e spesso confuse, specialmente per noi stesse. Ciò vale specialmente quando ci occupiamo delle cose che sappiamo essere buone per noi. Se proviamo ansia o paura, sappiamo che spendere del tempo in meditazione, fare una lunga passeggiata o chiamare al telefono un caro amico sarebbe un toccasana, ma preferiamo cercare di calmarci mangiando un gelato o una tavoletta di cioccolato. Sappiamo che dovremmo prepararci cibi sani, ma pensiamo di avere troppe cose da fare per cucinare, cosicché prendiamo dei cibi pronti e li mangiamo in gran fretta, di corsa. Sappiamo che dovremmo andare in palestra, ma alla fine della giornata siamo troppo stanche, cosicché combattiamo lo stress della giornata distraendoci davanti alla televisione. Gli esempi sono infiniti. I nostri pensieri razionali possono dirci quel che ci farebbe bene, ma la nostra stanchezza e le nostre emozioni, il bisogno di un sollievo rapido e immediato dal nostro stress e di un benessere istantaneo, hanno la meglio sulla nostra razionalità. Tratto da Perché non faccio le cose che mi fanno bene, di B.J. Gallagher. Breaking News. E continuiamo ad aggiornarvi su quanto sta accadendo in Piemonte. È stata consegnata dalle autorità di polizia alla ditta interessata l'area nei pressi della Maddalena di Chiomonte, sulla quale deve essere realizzato il primo cantiere della TAV. Come sapete, come vi stiamo raccontando qui su Radio 24 stamattina, sono stati molti gli incidenti che stanno proseguendo, ma al momento è stata dunque consegnata alla ditta interessata l'area nei pressi del cantiere. Maggiori informazioni a mezzogiorno. E noi riprendiamo la puntata di oggi. Oggi scopriremo che scegliere di mangiare bene è una bellissima opportunità. Non è necessario mortificarsi o sentirsi in castigo. Dottor Speciani. Credo che la cosa fondamentale, e questo vale per tutte le diete, è che sia possibile farlo, no? Quindi è uno dei punti focali, perché se tu imposti delle scelte alimentari che sono difficili, la gente poi non lo fa. Per cui davvero ci sono queste piccole scelte che sono nel quotidiano, il crudo vivo e colorato di cui spesso abbiamo Tagliamo. Già parlato, e di cui, cioè, il fatto di mangiare un pezzo di frutta o di verdura cruda prima di iniziare a mangiare qualsiasi cosa è un elemento che ha una valenza antitumorale, anti malattie cardiovascolari, si fa stare bene. Per perché così evitiamo di lavorare solo anti qualcosa. E il fatto di scegliere cibi meno salati del solito, ma anziché dire perché ci farà star bene in futuro, ci tiene le gambe sgonfie, i piedini che non sono più salsiccina nei sandali d'estate, no? Cioè queste piccole cose, per cui alla fine anche piccole scelte semplicissime diventano strumenti non solo di benessere e di salute per il futuro, ma anche nell'immediato, e quindi diventano le scelte assolutamente fattibili. Noi spesso utilizziamo il cibo come alleato per stare bene o per tornare a stare bene. Provate a pensarci, no? Ci sono persone che quando hanno mal di testa prendono un caffè amaro con il limone. È una buona idea, Marco? Ma assolutamente sì, Nicoletta, perché alla fin fine cefalea e caffè praticamente è uno dei rimedi popolari contro il mal di testa più utilizzato, ed è però anche efficace. Ovviamente purtroppo dipende anche dai tipi di mal di testa, che sono tanti. Sono tanti, purtroppo sì, però appunto aggiungere anche qualche goccia di limone a un caffè che è già di per sé preso amaro non facilita altro che mettere in gioco quelle che sono le molecole di questi due, di queste due sostanze, quindi nel nostro caso l'acido clorogenico e l'acido caffeico, che praticamente vanno poi ad agire sui nostri centri nervosi, quindi iniziamo ad avere un vero e proprio senso poi di relax. Certo. E tutto questo funziona, quindi molto spesso nella medicina popolare, insomma, c'è nascosto quello che è oggi poi materia e oggetto di studio nella medicina funzionale, nella cucina, anzi anche definita così molecolare, cioè intesa però come studio, come messa in evidenza di particolari molecole naturali presenti nei cibi. Oggi vogliamo proprio fare questa sorta di gioco, no? Tutti insieme. Aspetto le vostre ricette per capire come utilizzate il cibo, un po' come un SOS. Lo facciamo e allora poi cercheremo di capire come possiamo usare invece il cibo proprio come prevenzione per stare bene nell'immediato e mettere del fieno in cascina, dottor Speciani, no? Perché si è visto. Sì. Quindi, tra l'altro, è un'occasione ghiotta, perché abbiamo a disposizione due libri dei nostri due ospiti. Il dottor Speciani farà recapitare a casa, certo. Recuperare la tolleranza alimentare all'ascoltatore che interverrà all'800 24 00 24, che ci manderà un messaggio al 349 238 6666, che può essere o una richiesta d'aiuto o un aiuto che si sente di dare al popolo di essere benessere. La stessa cosa farà Marco Bianchi con le ricette dei Magnifici 20, quindi saranno loro a scegliere tra i vostri interventi quelli a cui far recapitare a casa il cibo. E a proposito di cibo come medicina, dottor Speciani, ci sono persone ad esempio che quando non riescono a dormire provano con la camomilla o il tiglio. Sto affrontando dei disturbi che sono abbastanza frequenti, e in questo periodo dell'anno, vuoi per la stanchezza, vuoi perché è cambiata proprio la luce, si presentano con maggiore intensità. Senta, Nicoletta, la cosa più interessante secondo me sulla camomilla, e poi mi riaggancio ad una delle cose che ha appena detto Marco Bianchi, che la camomilla in realtà è una delle piante con maggiore azione digestiva. Ed è interessante pensare che l'80% degli italiani riesce a dormire meglio con un po' di camomilla, in realtà non perché ci sia l'azione ipnotica, che in realtà c'è in piccola parte, ma perché probabilmente ha un'azione di stimolo digestivo. Come a me fa sorridere quando pensiamo, prima Bianchi diceva il caffè con la sua azione, che le bevande nervine più utilizzate nel mondo, quindi caffè, tè e cacao, fondamentalmente fanno parte della cultura e della tradizione, in realtà siano tutte e tre delle bevande che hanno una forte valenza antiallergica. Sa che io mi occupo di intolleranze, certo, alimentari e di allergie praticamente da quando sono piccolo, ancora masticavo da piccolino, e quindi mi fa sorridere che nella storia culturale di tutti i paesi, di tutti i popoli, ci sia come prodotto culturale da utilizzo comune per un prodotto antiallergico di fondo. Quindi comunque la camomilla va bene ed è uno degli elementi che facilita la digestione. Il tiglio invece è davvero una bella azione di tipo detensivo, aiuta e favorisce il sonno. C'è chi spegne il bruciore di stomaco con patate lesse, riso bollito. Marco, ci stanno arrivando già dei rimedi al 349-238-6666, ma intanto noi commentiamo quelli più, no, diffusi. Ma sì, l'uso del riso bollito, la patata lessa, alla fin fine è sempre quello che andiamo ad adottare ed è anche più efficace in qualche modo. Però anche una bella tisana, come può essere anche un succo di mela, nel quale andiamo a sciogliere dell'agar agar, che ha un potere appunto... protettivo per il nostro stomaco, e quindi anche in questo caso è un anti, è a livello proprio di prevenzione contro l'acidità di stomaco, è un ottimo rimedio. E non solo, ci sono anche degli studi recenti per i quali anche l'uso costante di olio extravergine d'oliva permette proprio anche di ridurre l'acidità gastrica. Quindi insomma, abbiamo portato di mano tutto quello abbiamo che... Abbiamo una farmacia che è disponibile veramente sui mercati, al supermercato, nei nostri orti. La natura ci mette a disposizione, poi questo è straordinario. In ogni stagione dell'anno, quello di cui abbiamo più bisogno per prevenire o per contrastare disturbi tipici di quella stagione, pensiamo agli agrumi ricchi di vitamina C in inverno, quando ci sono le malattie da raffreddamento, no? Come se ci avesse pensato. Certo, parliamo delle albicocche in questa stagione, albicocche e prugne che sono ricchissime di potassio, e in una situazione in cui la gente ha la pressione bassa, in cui non riesce a stare, e invece se riusciamo a mangiarci delle albicocche sane e sensate, diventa un elemento per contrastare i gonfiori da un lato e per tenere sulla pressione in maniera positiva. Quindi vedi, questa cosa è assolutamente vera, la natura è congrua con i nostri bisogni. Anna ci scrive: io uso il latte di soia contro le caldane della menopausa, funziona? Marco, funziona? Sì, perché è una pozione magica, appunto ricca di fitoestrogeni, che non sono altro che ormoni vegetali, che appunto permettono di tenere a bada quelli che sono gli squilibri ormonali che sono appunto nella donna, soprattutto nello stato appunto della menopausa. Quindi funziona, e possiamo anche utilizzare il latte di soia non solo magari alla mattina a colazione, ma anche come alternativa al latte vaccino nei dolci, quindi nelle preparazioni che facciamo in casa, qualsiasi cosa. Io faccio anche la besciamella a base di latte di soia, è eccellente, quindi insomma utilizziamolo di più, ecco. Mamma mia, che mal di pancia, ma che male mi è venuto all'improvviso, ma chissà, chissà perché. E pensare che ho mangiato stamattina solamente due brioche e un cappuccino, così come c'era ancora un posticino, ho mangiato sei cannoli e tre pigne, ho mangiato per il pranzo. Insomma, il nostro Topo Gigio, noi sorridiamo, ma devo dire che tante volte ci comportiamo un po' come Topo Gigio, no, dottor Speciani? Sì, devo dire che le persone che entrano in studio spesso hanno questo tipo di atteggiamento, quando inizia ad indagare un po' sulla modalità alimentare, saltano fuori delle abitudini perverse che in realtà sono legate poi alla pubblicità, a degli schemi che non sono quelli né della tradizione né della nostra cultura. Bisogna provarlo su se stessi, però, perché poi la malattia diventa uno strumento di conoscenza personale profondo. Quando le persone iniziano ad avere dei deficit su qualche aspetto, degli stati di malessere, scoprono che con delle scelte semplici possono riportarsi verso un equilibrio, in realtà questa cosa difficilmente viene dimenticata. Le persone iniziano, io sono dell'idea che la gente possa mangiarsi anche le brioche spalmate di Nutella piuttosto che di qualsiasi altra cosa terribile esistente sul mercato, se questo è occasionale, se questo noi abbiamo la capacità di adattarci, ma il background, la base deve essere quella di una situazione alimentare che ci consenta di vivere bene nel nostro quotidiano e anche in proiezione futura. Quindi noi oggi, con i vostri consigli, con i consigli dei nostri esperti, cerchiamo di portare delle piccole correzioni al nostro stile alimentare, perché oltre ai rimedi popolari, di cui continueremo a parlarne, continuate a scriverci e a chiamarci, proprio rimedi che ci insegnano a utilizzare il cibo come rimedio a qualche disturbo, come una sorta di SOS, ci sono evidenze importanti che arrivano dalla scienza che ci dicono che il cibo ha un potente effetto preventivo. Marco, il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, la cui missione è proprio promuovere la prevenzione primaria dei tumori attraverso la ricerca e la divulgazione della conoscenza sulle loro cause, ci invita a consumare cibi di provenienza vegetali, quindi frutta, verdura, di utilizzare cereali non industrialmente raffinati e di inserire con regolarità i legumi. Però ci sono delle persone che fanno molta fatica ad inserire questi alimenti nella dieta. Allora, io direi di farlo comunque, come in tutte le cose nuove, gradualmente. Quindi se, ad esempio, ritornando anche al discorso prima del latte, non piace il sapore del latte di soia, possiamo iniziare a farne una miscela con del latte vaccino, con del latte di mandorla, sicuramente cambierà il suo sapore e pian piano iniziamo ad apprezzarlo. Ma così come i cereali integrali, perché utilizzare... Spesso capita di sentire, no, non mi piace la pasta integrale, non mi piace il riso integrale, quando... alla fin fine, insomma, in tutta onestà dipende poi anche dal condimento che andiamo poi a preparare. Certo. Quindi bisogna iniziare veramente gradualmente e lentamente, appunto, portarle nella nostra dieta quotidiana. Dobbiamo sfruttare il più possibile queste molecole provenienti da frutta, da verdura, dai legumi. Sono molecole nascoste che dobbiamo però mettere in luce anche grazie magari ai metodi quindi di preparazione. Quindi c'è una molecola, ci sono molecole che ci aspettano e sono pronte a risolvere qualsiasi nostro disturbo e a prevenirlo. Quindi 800 24 00 24 andiamo da Enzo, che ci chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno Enzo. Buongiorno a voi. Io volevo illustrare il mio modo di nutrirmi, di mangiare da qualche anno, sì, che è nato da un'esigenza di tenere sotto controllo la glicemia, sì, e comunque stare in forma, e diciamo che mi sono abituato a fare una colazione sempre salata, però con pane integrale, dei salumi, dei formaggi al mattino. Sì. Mangio solamente un secondo, ma diciamo di stagione, con verdure a mezzogiorno, e solamente un primo la sera per mie esigenze, perché poi la sera faccio dello sport. Sì. E questo mi sta tenendo in peso forma bene, e devo dire che mi sento bene in generale, perché scelgo prodotti di stagione, praticamente totale assenza di salse industriali, queste cose, e in effetti già da un paio d'anni la pasta, quando sono a casa, quando posso, la mangio integrale, devo dire che la trovo ottima, assolutamente. Quindi, valida. Enzo, ha fatto fatica ad abituarsi a questo nuovo stile alimentare? Ma direi proprio di no. Perché no, ci sono le debite eccezioni quando mi capita per lavoro e anche spesso di essere fuori a mangiare, però scelgo sempre cose semplici e salto tutti quegli ammenicoli di salse, condimenti strani, resto sull'essenziale e me la cavo bene. Grazie Enzo per la sua chiamata all'800 24 0024. Marco, però nel tuo libro tu parli anche di salse. Noi non, se la salsa la prepariamo bene possiamo anche permettercela. Assolutamente, no? Sì. E non si vive una volta sola. Ma certo, ma poi dipende anche, appunto, che tipo di salse. Cioè, io ho dedicato quasi un capitolo intero, quello appunto degli antipasti, dei condimenti, appunto per esporre quali tipi di condimenti possiamo offrire ai nostri piatti, perché anche un semplice pesciolino lessato con una buona salsina, con un buon intingolo, ma funzionale, non facciamo altro appunto che renderci un piatto ricco di tante sostanze importanti. Non per ultimo, appunto, ricordiamoci l'effetto anche degli omega 3 come effetto antinfiammatorio, cioè sono recentissimi gli studi che sono nati a proposito degli omega 3, quindi pesce e olio d'oliva, olio extravergine d'oliva sono veramente un toccasana. Sì, e se l'olio d'oliva lo utilizziamo come base per la nostra salsa, nella quale andiamo ad aromatizzare con piante aromatiche semplici, naturali, che troviamo anche nell'orto di casa o sulla piantina nel balcone. Ma sì, insomma, alla fin fine veramente andiamo a colorare anche il nostro piatto e a impreziosirlo, appunto, di virtù. Allora, io spendo due parole sulla maionese, perché ecco, ne sono un affezionato estimatore. La maionese fatta in casa con un goccio di limone, con un bilanciamento di olio d'oliva e di oli poliinsaturi, è una cosa fantastica, usata in maniera equilibrata, è una salsa buona. Poi ho in casa almeno due delle mie ragazze, tra moglie e figlie, che si dilettano a farla buona, quindi sicuramente ottimamente aggiunta. Ecco, e quindi va bene anche per chi magari non ama molto le verdure, le può intingere. Certo, ci sono la quantità importante. Assolutamente. Aggiungo l'ultima cosa ancora sulla maionese: per gli intolleranti all'uovo, ad esempio, la preparo vegana utilizzando semplicemente il latte di soia. Vedi che ritorna sempre il protagonista, e si monta benissimo insieme all'olio d'oliva e diventa veramente una maionese eccezionale. Allora, noi avremo Andrea che ci chiama da Milano. Buongiorno, prima dei mercati, Andrea. Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno. Io volevo un consiglio, se possibile, pratico, che penso possa interessare la maggior parte delle persone della mia età, cioè i quarantenni. Sì. Arrivati a 40 anni, praticamente cosa succede? Il metabolismo cambia e il giro vita cambia, anche quello. Quindi, pertanto, nonostante si sta attenti all'alimentazione e tutto quanto, e il giro vita comunque si... Sì. Diventa morbido, arrivano le maniglie dell'amore, Andrea. Bravissima. Quindi un consiglio pratico per un'alimentazione ok, sana, ma non troppo restrittiva, certo. Allora Andrea, i nostri ospiti sicuramente si occuperanno del suo girovita, del girovita degli ascoltatori di Essere Benessere dai 40 in su, non è detto, perché io vedo girovita anche morbidi e, sui ventenni. Ci occuperemo anche dei disturbi che sono particolarmente fastidiosi in questo periodo, dell'insonnia, delle gambe gonfie. Dottor Speciani, ci sono tutta una serie di piccoli problemini in questo, della stanchezza, che ci fa una stanchezza fisica, una stanchezza mentale. Risolveremo i vostri problemi consigliandovi i cibi giusti, come tanti consigli, come quelli che vi diamo ogni giorno sul nostro Daily Lab, il laboratorio del benessere, in cui i nostri esperti ci insegnano a prenderci cura, a diventare soggetti attivi di prevenzione per prenderci cura di noi e, perché no, della salute anche delle persone che amiamo. Per sentire i consigli del Daily Lab è molto semplice, basta andare sul sito di Radio 24 e cliccare sul Daily Lab. Essere benessere. Pronto? Io sono la camera 35. Sì, vorrei qualche cosa da mangiare. Da? Com'er? Beh, com'er mangiare. Ma non roba pesante, roba leggera. Qualche panino, sì, qualche acciugo, un po' di burro, spaghetti, carne, pesce, bene, bene. Sì, carne, pesce e osso buco. Benone, sono ghiotto. Oh, ma senza osso, solo il buco, eh? E no, perché l'osso non lo digerisco. Frutta, formaggio, caffè e antipasto. Io per antipasto piglio pasta e fagioli. E un po' di bicarbonato. Tutto questo per quattro, eh? Ma mi raccomando, subito. Il grande Totò, ecco, qualche cosa di vero, di buono e di preventivo l'abbiamo rassentito anche da Totò. Ah sì, alcune cose erano sicuramente utili. A parte il buco, no? Dell'osso buco. 800 24 00 24, che cosa vogliamo fare? Oggi facciamo una grande comunità che si aiuta nel suggerire come utilizzare il cibo come terapia, ma vogliamo anche imparare a scegliere il cibo giusto come alleato per la nostra salute e il nostro benessere. Infatti numerose ricerche ci dicono che quello che mangiamo riesce a tenere lontano, evitare le malattie. E tornerei ancora un attimo alle raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, prima di dare al nostro ascoltatore Andrea da Milano, che chiedeva consigli sul girovita, delle indicazioni. Dottor Speciani, nella raccomandazione troviamo due verbi, limitare ed evitare. Limitare il consumo di carne rossa ed evitare il consumo di carne conservate. Io vorrei sottolineare questi due verbi che ci danno delle indicazioni importanti. Ma secondo me in parte legato a questa esperienza che mi piace proprio citare ed è riportata dalla World Cancer Research Foundation, quindi da questo ente importante che studia l'alimentazione. Normalmente, ad esempio, il consumo di carne rossa è statisticamente correlato con un aumento dell'incidenza del colorectal cancer, quindi del cancro del colon. Sì. Per cui si dice occasionale uso di carne rossa, cioè limitare, e però dall'altra parte quindi usiamo carni bianche, pesce ed altro. Però è interessante ad esempio andare a rapportarci, questo mi dà anche il là poi per parlare del girovita di Andrea, sul fatto che ad esempio gli argentini, che hanno un elevato consumo di carne rossa, contemporaneamente mangiano una notevolissima quantità di verdure crude e quindi ricchissime di antiossidanti insieme alla carne rossa. Quindi si bilancia e nella loro situazione specifica il cancro colorettale in realtà non si alza come si alza nei paesi europei. Quindi vedi che questa cosa è estremamente interessante, perché vuol dire che se noi riusciamo a bilanciare da un lato anche dei cibi tra virgolette potenzialmente negativi e dall'altra parte però riusciamo a inserire una serie di cibi a valenza estremamente positiva come la frutta e la verdura, riusciamo a tenere in compenso il nostro organismo. Volete una bella godervi un bel filettone, mangiate però anche la verdura. Sì, ma io dico mangiate la verdura e la frutta tutti i giorni, tutti i pasti, e poi quando vi fate una bella fiorentina perché ce l'avete, in realtà godetevela in pieno senza crearvi troppi patemi d'animo. Voi, Marco non ha 40 anni, ma... Io no, sì, abbondanti. No, però vi vedo abbastanza snelli, quindi siete tutte e due in grado di dare dei consigli ad Andrea per il suo girovita. Marco, vuoi iniziare tu? Ma io avrei iniziato semplicemente col consigliare ad Andrea ovviamente di ridurre anche quelli che sono i cibi troppo grassi. Molto spesso magari i grassi sono nascosti, quindi non ci rendiamo conto che anche un panino col prosciutto può ovviamente contenere dei grassi, proprio perché queste carni conservate, insaccati, hanno una notevole quantità di grassi. E sono grassi che poi a lungo andare vanno appunto a ristagnare. Stagnano, come si dice. Dottor Speciani, sicuramente per ridurre il giro vita basterebbe iniziare sempre con il crudo vivo e sì, colorato, questo che spegne anche un po' la fame. Sì, sì, questo è stato documentato anche scientificamente in modo preciso proprio negli ultimissimi giorni. Ma la cosa da segnalare è che di fatto c'è un calo fisiologico del metabolismo, quindi i due strumenti per poter iniziare a mettere in moto il contrario, cioè, sono l'attività fisica, non ci sono santi, non è, ogni tanto lo dico ai miei clienti, non è un'opzione. Cioè, punto, la devi fare, stop, non è che ci siano tante storie. Come? Significa anche solo camminare, sì, ma tutti i giorni farla diventare, metterla a budget, questo è fondamentale, o se no uno si tiene il giro vita e tutte le sue conseguenze. E poi una prima colazione ricca che, guarda, è quello che ci raccontava prima Enzo, quando ha detto, in realtà sono stato male, quando poi ho migliorato mi sono messo a fare una prima colazione molto ricca, pane integrale, anche con formaggio, con altre situazioni. Quindi prima colazione ricca e muoversi. Senza il movimento è difficile che iniziamo a ragionare. Maurizio, buongiorno da Bari. Sì, buongiorno, chiedo scusa. Io sono molto attento all'alimentazione, peraltro studio medicina, non bevo, non fumo, quindi sono un fautore del vivere sano, però sì, vorrei cortesemente dai suoi ospiti una parola definitiva sui carboidrati, su come, quando e quanto, perché i miei istruttori in palestra, per sì, esempio, lo vedono come il veleno da evitare a tutti i costi, proprio per allacciarmi all'ascoltatore precedente, proprio anche in funzione di un giro vita perfetto, scultorio, eccetera. Quindi vorrei una parola definitiva su questi. Maurizio, lei è abbastanza, oltre a studiare medicina, non fumare, non bere ed essere molto attento alla salute e alla dieta, è scolpito? Ci provo. Allora, Maurizio non vuole le maniglette dell'amore, ma soprattutto vuole mantenersi in forma, allora, nel senso pieno del termine. Questi carboidrati, quando? È proprio interessante, proprio pochi giorni fa il Dipartimento dell'Agricoltura statunitense, con Michelle Obama che ha fatto da portavoce, ha lanciato uno schema dietetico per il controllo dell'obesità, che ha messo sicuramente, ha eliminato il concetto delle vecchie piramidi alimentari, che per anni hanno determinato catastrofi, devo dire. Le vecchie piramidi alimentari erano con una base di carboidrati, tra l'altro neanche descritti come integrali, ma proprio quindi pasta, pane, eccetera, tutto quanto, e poi sopra a salire. In realtà ha ricreato una situazione, tra l'altro molto simile, ne abbiamo parlato, al concetto di dieta GIF, cioè dividere fondamentalmente metà del piatto ogni pasto, sì, di frutta e di verdura, metà di cereali integrali, quindi con un indice glicemico basso, e altra metà di proteine. Cosa è stato fatto? È stato ridato un valore effettivamente alle proteine, a un bilancio dell'indice glicemico nei piatti, quindi ad una situazione in cui il rapporto con l'aumento della glicemia e dell'insulina è importante. Allora, queste cose sono notevoli, significa non negare i carboidrati, ma capire che i carboidrati non possono essere la base unica e assoluta della nostra alimentazione. Per cui chi ti dice mangia solo proteine commette un errore, perché mancano davvero, diventa pericoloso una situazione in cui vengono eliminati i carboidrati che hanno una valenza plastica. Farli diventare la panacea, tutti, tanti, sani per tutti, non è vero, l'abbiamo scoperto anche dagli studi genetici. Ricordiamoci che noi veniamo anche dai cacciatori e raccoglitori, che carboidrati ne mangiavano poco nella storia, certo, e oggi molte popolazioni ne patiscono gli effetti. Quindi giustamente un minimo di controllo, sapendo che però possono essere sani e integrali, quindi con dentro tutte le loro valenze e non solo quelle di zuccheri semplici dentro duri, di cui troverete numerose ricerche. Incrementano appunto il senso di sazietà, quindi è un punto a nostro favore, insomma, aumentarne comunque la scelta, insomma, di quell'integrale. Quindi Alessandro ci chiama da Viterbo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io soffro di colesterolemia genetica e non posso prendere le statine perché mi si alza molto il CPK. Volevo sapere se una dieta a base di proteine, di sola soia e salmone può abbassare, perché soffro, non posso prendere i legumi perché ho intolleranza anche ai legumi. Un caso, insomma, un po' complesso quello di Alessandro. Beh, però è complesso, ma alla fine ci richiama a quelli che sono stati gli studi proprio sugli omega 3, sì, di cui parlava, sì, prima Bianchi, nel senso che in realtà gli omega 3 e la loro importanza sono stati scoperti quando si diceva, ma questi esquimesi qua, questi Inuit, mangiano solo grassi animali, hanno il colesterolo basso, e poi in realtà mangiavano solo salmone, foca, è vero, però, mucchio, e alghe, e quindi avevano pesce omega 3 importanti. Quindi la dieta teoricamente prospettata, però bisognerebbe confermarla, però non potrebbe non essere una cattiva idea. Condivido completamente quanto detto, per di più tra i condimenti, se magari scegliamo anche a volte dell'olio di lino, che non è buonissimo, però il 50% dei grassi di questo olio sono appunto omega 3, tanto quanto, anzi però di solito... Si consiglia anche questo per chi non piace il pesce, quindi è un ottimo, è un toccasana veramente per il nostro colesterolo. Olio di lino. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme con le vostre telefonate. A disposizione i due libri dei nostri autori. 800 24 0024. Essere e benessere. Mai, cosa c'è nella padella? Che profumino, fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà. Sì, oggi cerchiamo di scegliere e di gustare il cibo buono, quello che ci fa bene, dai rimedi popolari, le conferme sulle scienze, il ruolo del cibo come prevenzione per tenere lontano il rischio di ammalarci. In linea con noi abbiamo Rosanna da Roma, vediamo che cosa ci racconta. Buongiorno Rosanna. Il vero, chiedevo consigli a voi, come preparare la besciamella oppure la pasta frolla facendo a meno del burro oppure perlomeno in pasta? Rosanna, chiediamo subito a Marco Bianchi, che prepara delle ottime besciamelle, delle ottime paste frolle, magari senza utilizzare il burro, che sappiamo, come tutti i grassi animali, deve essere un po' ridotto, no? Non evitato completamente, perché noi non vogliamo, no? Non ci sono alimenti da evitare tassativamente, da bilanciare, come ci diceva il dottor Speciani. Il burro contiene vitamina D, che ad è esempio. Però, Marco, però ci sono le alternative. Bravo. Ancora più salutari, quindi in questo caso mi viene da consigliare appunto di utilizzare assolutamente l'olio di mais nella preparazione delle crostate, nella preparazione delle paste frolle. Per di più, se la adattiamo a una giusta farina, quindi in questo caso la friabilità la andiamo a conferire grazie all'utilizzo di farina di riso, il gioco è fatto, quindi un giusto equilibrio tra farina di tipo zero e magari integrale e farina di riso con dell'olio di mais, la nostra pasta frolla è bella che è pronta e molto buona. E per quanto riguarda invece la besciamella, assolutamente va benissimo l'utilizzo di latte di soia, viene molto buona, la preparo anche con il latte di riso e per addensare quella che è la farina di riso o la classica maizena. Quindi certo che va sempre, che è facile da utilizzare, si utilizza e la troviamo dappertutto soprattutto. Quindi allora io ho una richiesta da Davide, che leggo tra i tanti messaggi che sono arrivati, perché vuole fare una sorpresa alla sua ragazza e mi scrive: ho una domanda, la mia ragazza è celiaca, spesso soffre di mal di pancia anche senza ingerire per forza glutine, c'è qualcosa di lenitivo e minimamente gustoso che possa prepararla per fare una bella sorpresa? Ah, credo che sia una tipica domanda che merita poi il libro. Allora lei è stato folgorato dalla richiesta. Folgorato, no. Questo lo dico nel senso che spesso oggi si fa una diagnosi di celiachia identificando la reattività al glutine, e spesso nelle persone che hanno questo tipo di problema ci sono a fianco anche delle ipersensibilità, vuoi al lattosio, certo, vuoi al lieviti, vuoi ad altre sostanze che non vengono tenute in considerazione. In realtà, mentre sulla celiachia c'è un discorso complesso da fare che non è il caso di fare oggi, sulle altre ipersensibilità invece è possibile che una persona, ad esempio, pensa al fatto che quasi tutti i prodotti che vengono utilizzati per tamponare la celiachia purtroppo sono addizionati con moltissimi lieviti e con moltissimi grassi vegetali idrogenati, quindi è possibile che proprio questi mali di pancia siano legati a delle reattività, delle intolleranze alimentari che stanno a fianco della celiachia stessa. Quindi lì nel libro sono indicate. Allora anche a Davide che vuole preparare qualche cosa di buono per fare una bella sorpresa alla sua fidanzata, riceverà a casa recuperare la tolleranza alimentare, tecniche nuove del dottor Attilio Speciani. Intanto molte richieste da parte dei nostri ascoltatori su come far mangiare bene i bambini. Noi abbiamo dedicato proprio una puntata a questo tema la scorsa settimana, come gli adolescenti, no, cerchino sempre, preferiscano le cose che li fanno meno bene. Ma tra l'altro ne avevamo anticipato, Marco, tu tra poco, a settembre, avrai proprio una sorta di reale, sarai un Tato Lucio versione versione nutrizionista per consigli alimentari e diciamo dintorni. Proprio di sì, dalla fine di settembre sarò appunto in TV su Fox Life e lì insieme appunto a un team di esperti, a uno staff medico, praticamente andremo ad aiutare quelle famiglie che hanno figli che purtroppo non sono completamente molto bravi a tavola, fanno troppi capricci, piuttosto che hanno qualche chilo in più, mangiano troppo in maniera disordinata, si muovono poco, e lì interverrò io. Ecco, Tato Marco, i nostri casting sono sempre aperti, quindi io... Candidatevi sul sito di Magnolia, ci saranno Sara, Sonia ed Elena che... Si prenderanno cura di voi. Assolutamente, sono lì pronte a ricevere le vostre telefonate. Io vorrei chiudere con un consiglio, si mangia anche con gli occhi, no? Quando vediamo un bel piatto preparato dove ci sono i colori, dove all'assaggio vediamo che ci sono i vari ingredienti con consistenza diverse, devo dire che siamo molto appagati. E in linea con noi abbiamo la professoressa Luisa Torri, che è docente di analisi sensoriale all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Bra. Professoressa, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, si mangia anche con gli occhi, perché guardare e apprezzare anche il sapore di un cibo ci aiuta a ridurre il senso di sazietà, ad alzarci da tavola un pochino prima, come insegnavano i nostri nonni, a evitare il ricorso a snack, piluccamenti vari tra un pasto e l'altro. Professoressa Torri, questo perché? Il concetto di sazietà è un concetto importante, soprattutto perché negli ultimi anni molti studi hanno evidenziato che la memoria di quello che si mangia può influenzare proprio il comportamento alimentare e diciamo, l'appetito e la sazietà. Col termine di sazietà però dobbiamo distinguere due concetti fondamentali. Il primo è quello di sazietà intrapasto, quindi legato all'interruzione del consumo di cibo durante l'impasto, quindi quello che ci porta a completare un pasto. E l'altro invece è il concetto degli spiluzzicamenti a cui io anticipavo. Quindi, professoressa Torri, anche la ricerca cosa ci dice? Oggi, quando ci sediamo a tavola, all'ora di pranzo, guardiamo quello che stiamo mangiando, guardiamo i colori, mastichiamo con calma, sentiamo la consistenza dei vari ingredienti. Qualcosa in noi rimarrà di questo ricordo, di questi sapori, la ricerca lo sta dimostrando, e ci eviterà di mangiare troppo, mangiare di più. Professoressa Torri, grazie per essere stata con noi. Grazie a Marco Bianchi, al dottor Speciani. Sul sito oggi metteremo l'ascoltatore che ha scelto Marco Bianchi per ricevere a casa il suo libro. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Essere e benessere.